ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Lecce confessa: lo studente fermato per l'omicidio della coppia di fidanzati ha agito per vendetta. Il ministro Roberto Speranza: ora occorre una profonda e coraggiosa riforma del sistema sanitario nazionale. Terrorismo internazionale: arrestata in Siria Alice Brignoli, militante dell'ISIS insieme al marito di origini marocchine. La guerra tra Armenia e Azerbaigian, la cancelliera tedesca Angela Merkel chiede il cessate il fuoco. Dopo i 14 positivi del Genoa, trema il campionato di Serie A, il virologo Bassetti mette sotto accusa i test e parla di Waterloo dei tamponi. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In apertura la cronaca con la notizia delle ultime ore della confessione di Antonio De Marco, lo studente arrestato nella serata di ieri a Lecce con l'accusa di essere lui l'assassino di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. Sentiamo. Un ragazzo schivo, timido e introverso, così i vicini di casa descrivono Antonio De Marco, il 21enne fermato ieri e reo confesso del duplice omicidio dei fidanzati di Lecce avvenuto il 21 settembre scorso. Lo studente di scienze infermieristiche di Casarano, un paese della provincia leccese, ha continuato a frequentare le lezioni in ospedale nei giorni seguiti al delitto senza destare sospetti. E quando lo hanno arrestato si è messo a ridere. Il duplice omicidio è stato realizzato con totale assenza di ogni sentimento di pietà verso il prossimo, è scritto sul provvedimento di fermo. E pare che prima di uccidere l'arbitro Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta volesse legarli e torturarli. Ma qualcosa è andato storto ed è riuscito solo ad accoltellarli, anche se con una ferocia indicibile. Un delitto comunque, come ha spiegato il procuratore di Lecce Leonardo Leone De Castris, a lungo premeditato e nei minimi particolari. Si è arrivati a lui anche attraverso immagini di telecamere e dall'accertamento che questo soggetto era stato coinquilino, cioè affittuario di una stanza nei mesi precedenti e verosimilmente fino all'agosto scorso. In quanto ex coinquilino, De Marco aveva una copia delle chiavi di casa, perciò ha potuto entrare nell'appartamento cogliendoli di sorpresa. E se finora il movente era poco chiaro, sembra sempre più probabile che si sia trattato di una vendetta, perché Daniele De Santis aveva deciso di non rinnovargli il contratto d'affitto e di tenere l'appartamento solo per sé e la fidanzata. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo il caso dei giocatori del Genoa positivi al coronavirus, dopo la partita col Napoli, il campionato italiano è in subbuglio, il rinvio di Genoa a Torino sembra scontato, oggi alle 13 faranno il tampone i giocatori del Napoli, atteso domenica alla sfida contro la Juventus. Quello che sta accadendo al Genoa potrebbe rappresentare la Waterloo dei tamponi, ha commentato così il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive al San Martino di Genova. Ma con la pagina delle notizie sul coronavirus partiamo dal bilancio del contagio a livello globale. Ha superato la soglia di 1 milione il numero dei decessi per coronavirus nel mondo. Secondo l'americana John Hopkins University, i più colpiti in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con oltre 200.000 vittime, seguiti da India e Brasile. Quanto rapporto tra decessi e numero di abitanti, però, Israele ha superato gli USA. Il tasso nel paese in lockdown è infatti di 3,5 morti per milione di abitanti, mentre negli Stati Uniti è di circa il 2,2. La pandemia è la stessa, in altre parti del mondo colpisce fortissima, afferma Walter Ricciardi dell'OMS. Non c'è una seconda ondata sicura, è sempre la prima, perché l'azzeramento dei casi non è mai avvenuto. Il problema ora, aggiunge Ricciardi, non sono le terapie intensive, ma le subintensive e il rafforzamento del pronto soccorso con percorsi paesi separati. In Italia, intanto, il caso Genoa, dove 14, tra cui 8 giocatori, sono risultati positivi, sconcerta e preoccupa, in particolare i giocatori del Napoli, contro cui il Genoa ha gareggiato al San Paolo domenica scorsa e che in questi minuti vengono sottoposti a tampone. Quello che sta accadendo alla squadra ligura, afferma il professor Bassetti del San Martino di Genova, potrebbe rappresentare la Waterloo dei tamponi, perché a poche ore dall'esito di tamponi negativi per tutta la squadra si è assistito a numerose positività. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poco fa il ministro della Salute Speranza: penso che una coraggiosa riforma del Servizio Sanitario Nazionale ci sia profondamente bisogno per superare limiti e difficoltà della sanità italiana, che ha comunque superato in maniera positiva l'emergenza Covid. Così Speranza in audizione in commissione al Senato parlando del Recovery Fund. La pandemia ha evidenziato problemi strutturali che, ha detto Speranza, vanno affrontati. E oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro dello Sviluppo Patuanelli saranno ospiti all'Assemblea annuale di Confindustria, un'occasione anche proprio per mettere a punto il piano italiano per il Recovery Fund. Dopo l'elezione a maggio a presidente di Confindustria nell'assemblea privata, il debutto pubblico di Carlo Bonomi all'Auditorium di Roma ha dovuto attendere 4 mesi causa Covid, ma fin dall'inizio è stato costante il suo pressing nei confronti del governo, l'invito a non fermarsi alle misure di emergenza ma a programmare con decisione politiche per la crescita. I provvedimenti del governo di questi mesi, ha scritto Bonomi a fine settembre, nonostante i 100 miliardi messi in campo, non hanno sciolto alcuno dei nodi che imbrigliano la crescita del paese. Oggi dunque Bonomi lancerà la sua agenda di riforme con obiettivo la crescita economica a lungo termine: giustizia, burocrazia, infrastrutture, innovazione, fisco, la riforma degli ammortizzatori sociali con le politiche attive del lavoro. E poi i contratti. Vogliamo rinnovarli, ha detto Bonomi nell'incontro con i sindacati a inizio settembre, ma li vogliamo rivoluzionari, con più spazio al salario di produttività e al welfare aziendale. Previsto oggi non solo il tradizionale intervento del ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli, ma quest'anno anche del premier Giuseppe Conte. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Tra scuola, MES, reddito di cittadinanza e IMSS, le tensioni nella maggioranza non mancano. Sull'istituto di previdenza e sul presidente Pasquale Tridico interviene il premier Giuseppe Conte: il compenso è inferiore, prende meno di altri, il problema è l'attesa per la cassa integrazione. Il tema è che ci sono dei cittadini italiani che ancora aspettano la cassa integrazione. Su questo quindi il presidente dell'INPS, tutti i lavoratori dell'INPS e tutti coloro che hanno un ruolo, e io per primo, dobbiamo lavorare giorno e notte. Il premier è ottimista su un calo del PIL inferiore alla doppia cifra. Nessun ritardo garantisce poi sul recovery fund. La maggioranza però è spaccata sulla scuola. La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina vuole il concorso straordinario per i precari. Si partirà il 22 ottobre, mentre il PD chiedeva lo slittamento a Natale. Ma Azzolina va avanti, si farà in quella data. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso le notizie dall'estero. L'Azerbaigian riferisce che tra ieri notte e stamattina intensi combattimenti tra le forze azere e i separatisti armeni del Nagorno-Karabakh sono proseguiti lungo l'intero fronte. 10 i civili azeri che sarebbero morti dall'inizio dei combattimenti. Sul fronte diplomatico, l'intervento della cancelliera Merkel, che chiede il cessate il fuoco e il ritorno ad un tavolo delle trattative. Sarebbero già 95 le vittime fra i due schieramenti nella guerra in corso da domenica tra le forze dell'Azerbaigian e i separatisti armeni nell'autoproclamata Repubblica del Nagorno-Karabakh sostenuta dall'Armenia. Da ieri notte sono in corso intensi combattimenti lungo l'intero fronte e, stando a quello che riferisce l'Azerbaigian, le forze armene avrebbero tentato di riprendere le posizioni perdute, ma sarebbero state respinte dalle truppe azere, che ora riferiscono di portare avanti un'offensiva. Sulla crisi nel Caucaso, oggi pomeriggio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è in programma una discussione d'emergenza a porte chiuse. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I carabinieri del ROS hanno arrestato in Siria una cittadina italiana, Alice Brignoli di Bulciago in provincia di Lecce, indagata per associazione con finalità di terrorismo internazionale, perché era partita nel 2015 con il marito italiano di origine marocchina, entrambi erano militanti dell'ISIS. È stata rintracciata dai carabinieri del ROS con i suoi 4 figli, Alice Brignoli, scomparsa da Bolciago nel 2015 e arrestata in Siria con l'accusa di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. In quell'anno la Brignoli e il marito, Mohamed Koraichi, lasciarono l'Italia per raggiungere il califfato portandosi dietro i loro figli. Una volta in Siria, Koraichi ha partecipato direttamente alle operazioni militari dell'ISIS, mentre la Brignoli, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe ricoperto un ruolo attivo nell'istruzione dei figli alla causa del jihad. I nomi della coppia erano finiti nell'elenco dei foreign fighters italiani. Aisha, così si faceva chiamare Alice Brignoli dopo la conversione, e suo marito Mohamed avevano iniziato il percorso di radicalizzazione nel 2009. Con il passare del tempo avevano tagliato i ponti con le famiglie fino alla partenza, prima tappa alla Turchia, da dove poi hanno raggiunto la Siria. Alice Brignoli oggi si sarebbe detta felicissima di tornare in Italia assieme ai suoi figli, anche se lei finirà in carcere e i bambini verranno affidati a una comunità. Il marito della donna, da quanto si è appreso, è morto in Siria. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una nuova inchiesta a Roma ci riporta dunque in Italia, un'inchiesta che evidenzia l'attività criminale della Camorra in particolare, che ha messo le mani sulle attività di ristorazione della capitale. Daniele Biacchessi. Non sfugge nessun affare alle mafie, neppure i cospicui incassi di molti ristoranti del centro di Roma. Così dall'ultima inchiesta di stanotte emerge che la Camorra, già con le radici ben piantate nella capitale fin dai tempi dell'accordo con la banda della Magliana, controlla una fetta consistente del business della ristorazione, con un meccanismo ormai collaudato e funzionante da sempre. I personaggi chiave questa volta sono i fratelli Angelo e Luigi Moccia, e gli inquirenti seguono le mosse di Angelo Moccia poco dopo la sua scarcerazione. Man mano che procedono gli accertamenti, gli investigatori scoprono che i due fratelli acquistano attraverso prestanome di facciata alcuni dei migliori locali romani attraverso l'estorsione, sottraendo con le minacce, la violenza, i beni immobili ai legittimi proprietari, l'intestazione fittizia aggravata dal metodo mafioso e l'esercizio abusivo del credito. Una banda dunque dalle attività emblematiche. Quante altre mani criminali si muovono nel centro delle nostre città italiane? C'è una ultima notizia che riguarda le misure restrittive di lotta al coronavirus, obbligo di mascherina all'aperto nel weekend in centro a Bologna, in vigore da questo venerdì alle 18 fino a domenica a mezzanotte, lo ha annunciato poco fa il sindaco di Bologna Virginio Merola. 13 e 12 minuti, noi facciamo un piccolo break, poi torniamo con tutte le altre notizie, ripartiremo dal caso Genoa, tamponi negativi la mattina, si parte per la trasferta a Napoli, dopo la partita il giorno dopo ci sono altri 10 giocatori positivi, ce n'erano già stati 2 il giorno prima. Ecco, cosa può essere successo in queste 24 ore? Ne parleremo con il professor Crisanti, 349-238-6666, per i vostri messaggi. A tra poco. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Promo 24. Piemonte, bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte, libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte, gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Il ministro della Salute Speranza auspica una profonda riforma del sistema sanitario. Lo dice Speranza in una audizione sul Recovery Fund. E oggi Conte e Patuanelli saranno all'Assemblea di Confindustria, occasione proprio per mettere a punto i progetti italiani per il Next Generation. Lecce confessa lo studente fermato per l'omicidio della coppia di fidanzati. Erano troppo felici, ho agito per vendetta, avrebbe detto agli inquirenti. Dopo i 14 positivi del Genoa, trema il campionato di calcio. Il virologo Bassetti mette sotto accusa i test, parla di Waterloo dei tamponi. Ne parliamo tra poco. E allora, è 13:17 minuti, cari ascoltatori, torniamo a parlare di questa questione, come avete sentito dal sommario. Il caso Genoa, ci sono 14 tra giocatori e membri dello staff positivi del Genoa, trema tutto il campionato di Serie A perché è quasi sicuro il slittamento della partita del Genoa col Torino, ma c'è attesa per l'esito dei tamponi dei giocatori del Napoli, lo stanno facendo proprio in questi minuti. Domenica c'è Napoli-Juventus, potrebbero praticamente saltare quasi tutte le partite a questo punto. Allora, cosa può essere successo da tamponi negativi il sabato, la domenica, fino ad arrivare a tamponi positivi per diversi giocatori tutti insieme il lunedì? Ne parliamo con il professor Andrea Crisanti, virologo, naturalmente direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare a Padova. Benvenuto Crisanti. Buongiorno, grazie per l'invito. Ben ritrovato. Allora, io ricordo quello che è accaduto. C'è stato un giocatore positivo sabato mattina, un altro la mattina della domenica, prima di partire per la trasferta col Napoli. Poi lunedì, dopo la partita, si sono scoperti altri 12 positivi. Totale 14 positivi, 11 sarebbero giocatori, 3 membri dello staff. In molti si sono domandati cosa può essere successo, com'è possibile che tra domenica e lunedì, senza che queste persone abbiano avuto modo di avere particolari contatti sociali al di fuori, diciamo, della partita, ma insomma, che si siano contagiati tutti tra di loro o che ci siano state delle false negatività. Crisanti, lei che ne pensa? Può essere legato al tempo di incubazione, per esempio? No, guardi, questa è una storia che rientra perfettamente nella dinamica di trasmissione del virus e allo stesso tempo fa capire quali sono le conseguenze di non applicare la quarantena ed esentare i giocatori da questa misura di prevenzione. Cioè, lei, di fronte al giocatore positivo, come dire, la misura più necessaria, che però non viene applicata, sarebbe stata mettere tutti in quarantena. Ecco, poi ci sarebbe da chiedere perché viene derogato per il calcio una misura che invece viene applicata a tutti quanti gli altri. Quello che è accaduto è che c'è stata una persona positiva, avranno fatto l'allenamento e probabilmente prima che questa persona positiva avesse fatto il test, durante l'allenamento ha trasmesso la malattia. C'è un periodo di circa 48 ore prima che la persona contagiata diventa positiva, quindi questo è tutto normale. La follia è non aver messo queste persone in quarantena in presenza di un positivo. Guardi che il calcio, come ho già detto in altre occasioni, è una situazione in cui c'è contatto fisico, aumentata respirazione e quindi condizioni fantastiche per trasmettere il virus, molto simile a quelle che si registrano nelle discoteche. Io sono veramente basito che si consenta al virus di trasmettersi derogando sulle quarantene dei giocatori proprio per favorire non so che cosa, attività economiche, voglio dire, perché il calcio è diverso da tutti gli altri cittadini. No, la questione è che, senti, lei lo sa bene, il calcio è, diciamo, la principale fonte di intrattenimento degli italiani, forse una delle principali, sì. È anche fonte di un grande giro economico, si è atteso, poi si è fatto ripartire il campionato, poi si è detto facciamo tamponi in continuazione e siamo sicuri, invece questa è la dimostrazione, sì, che non basta fare tamponi in continuazione. No, bisogna mettere in quarantena, scusi, ma se lei ha sua moglie che inspetta, lei la mettono in quarantena, giustamente, no? La mettono in quarantena perché lei ha una probabilità estremamente elevata di infettarsi e di infettare altre persone. E lo stesso vale per tutti gli altri cittadini. Non capisco perché si debba fare eccezione per una situazione in cui addirittura il contagio è favorito. Adesso vedremo se, in virtù di quello che sta accadendo, se cambierà qualcosa, se cambieranno alcune di queste regole. C'è però chi, Crisanti, invece mette un po' sotto accusa proprio il tampone. Alcuni dei suoi colleghi più o meno illustri dicono attenzione perché ci possono essere false negatività, si dà una patente di negatività a qualcuno che magari negativo non è, invece potrebbe essere positivo, e al contrario anche positività asintomatiche che non servono a nulla. Guardi, se si fosse applicata la quarantena non staremmo qui a discutere di tutta questa storia. Se si fosse applicata la quarantena ci sarebbe stato un positivo che se ne stava in sottocura, se aveva bisogno di cura, c'erano le altre 15 persone che stavano in quarantena, lì si sarebbe fatto un tampone, dopo 2-3 giorni avremmo scoperto che erano positivi e sarebbe finita là. E non saremmo qui a discutere di tamponi. Il problema è che non si può confondere tamponi e misure di sicurezza epidemiologica. Cioè, due cose devono andare insieme, i tamponi e le quarantene, perché se io trovo un positivo ma i suoi contatti non li isolo, lei dice allora che stiamo a fare? Allora non stiamo a fare epidemiologia e controllo di epidemia, no? Ma quindi adesso secondo lei cosa dovrebbero fare? Cioè la squadra di calcio del Genoa dovrebbe essere messa tutta in quarantena, tutti fermi? E per forza, certo. Non ci stanno per la prima. E anche quelli del Napoli? Perché il Napoli ha giocato con... scusi, io non so... hanno giocato la partita insieme e proprio la domenica... Certo, anche quella del Napoli va messa in quarantena e sotto sorveglianza, quindi bisogna fare i tamponi a quelli del Napoli adesso e fra 2 o 3 giorni, perché chiaramente il virus ci mette... se uno è contagiato in genere diventa positivo dopo 2 o 3 giorni. Perché adesso stanno facendo i tamponi i giocatori del Napoli. Però, questa è una cosa giusta, che stanno facendo i tamponi. Però non basta attendere l'esito, lei dice, magari anche di fronte a qualche tampone negativo, perché potrebbero esserci le famose 48 ore. Quindi tampone certo, negativo, senza quarantena, si va avanti con la catena del contagio, certo. Lei dice. Certo, bisogna aspettare perlomeno altre 48 ore, verificare che qualche persona che era negativa adesso, perché non ha fatto in tempo a positivizzarsi. E non è che esiste, guardi, se io mi contagio adesso con una persona non è che divento positivo adesso, in genere divento positivo dopo 48 ore, quindi è chiaro che se io faccio il tampone adesso non ho nessuna informazione, però sapendo che c'era una persona positiva sto in quarantena, aspetto 48 ore, se fa il tampone, se sono negativo gioco, se non sono positivo me ne sto a casa. Senta Crisanti, un'altra cosa prima di salutarci, per chiudere, le voglio chiedere un commento, abbiamo l'occasione di averla qua con noi, un po' sull'andamento cioè in questa fase, no, del contagio. Vediamo che ci sono in Francia e Spagna, ma non solo, in Europa sono 2 paesi più colpiti, tantissimi casi, più addirittura che non in marzo, aprile, in quella fase, la fase buia, però sono casi meno gravi comunque, perché provocano... Non si possono paragonare i casi di allora con quelli di adesso. Guardi, in Inghilterra hanno stimato che durante a marzo c'erano 100.000 casi al giorno. Quindi, perché non riuscivano a testarli, quindi diciamo erano più cosa, di quelli che si testavano. Esatto, e la stessa cosa vale per l'Italia. Poi il fatto che l'Italia sta in qualche modo controllando l'infezione più e la trasmissione dell'epidemia più di altre nazioni dipende proprio dal fatto invece come vengono fatti i tamponi. Nel senso che noi... facciamo un misto tra contact tracing e quello che noi chiamiamo network testing, cioè che una volta identificato un positivo sintomatico testiamo tutti i parenti, amici e colleghi di lavoro. In questo modo intercettiamo gli asintomatici. Guardi, questa è l'unica cosa che ci distingue dagli altri paesi, è l'unica cosa che sta facendo effetto. Quindi io penso che dobbiamo coltivare e implementare questa strategia se vogliamo uscire indenni da questa pandemia, dalla seconda, cosiddetta seconda ondata. Va bene. Grazie Andrea Crisanti, grazie per essere stato con noi. Va bene. Alle 13:25 torneremo sull'argomento coronavirus con i risultati pubblicati su una prestigiosa rivista scientifica di una inchiesta della Società Italiana di Medicina Ambientale sulla correlazione tra il Covid e l'inquinamento atmosferico. Questa era una cosa che era uscita tempo fa, ma adesso questa ricerca italiana è stata pubblicata con diverse citazioni all'estero proprio di recente, quindi ci torneremo su tra poco. Adesso invece un'altra notizia, ed è un caso abbastanza incredibile di cronaca, che ci porta tra la Basilicata e la Calabria, dove un gruppo di agenti di polizia si è candidato alle elezioni, e non era la prima volta, di un piccolo comune sotto 1.000 abitanti, non c'è l'obbligo di richiesta firme per la presentazione delle liste, hanno ottenuto i 30 giorni di aspettativa per poter fare la campagna elettorale. E come già accaduto in passato, poi si sono dileguati, non gli interessavano le elezioni, interessavano solo i 30 giorni di aspettativa. E in questo caso sono stati anche eletti, quindi il prefetto ha dovuto commissariare questo piccolo comune, Carbone, in Basilicata. Allora, come sia potuto accadere una cosa del genere, non è la prima volta, ne parliamo con, lo ringrazio per essere con noi, Girolamo Laquaniti, che è portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Benvenuto. Sì, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, è possibile che non era la prima volta che questi agenti facevano questo tipo di operazione, l'avevano fatte, se ho capito bene, anche nella loro regione in anni precedenti, in elezioni, in tornate elettorali precedenti. Nessuno sia stato insospettito da queste aspettative chieste a fila, che poi sono state regolarmente consentite. Allora, ci sono 2 aspetti. La prima e che l'aspettativa in caso un soggetto si candidi è un automatismo, cioè non è data facoltà al datore di lavoro di valutare o non valutare, è un automatismo. Cioè le non c'è volte, un vaglio di nessuno, uno come, ci sarà no, un'autocertificazione, una dichiarazione, sì, che uno, cosa c'è? È uno dei quei principi per cui se il soggetto è ufficialmente candidato a delle elezioni, possono essere politiche o amministrative, automaticamente per tutti coloro i quali appartengono al pubblico impiego, ivi compresi quelli del comparto sicurezza, automaticamente devono fruire del periodo di aspettativa. Quindi nessuno avrebbe potuto mettersi in mezzo, lei dice. Con la normativa come costruita e come oggi, assolutamente no, anche perché immagini quale accuse qualunque datore di lavoro si sarebbe trovato nel momento in cui di fronte a un candidato ufficiale per un'elezione dicesse no, passano 15 giorni, passano 10, non hai diritto a nessuno. Seconda cosa, perché anche questa è indicativa, questa volta finalmente si è fatto luce su questo malcostume, per non usare altri termini, perché sono stati eletti. Le altre volte partecipavano alle elezioni, ma non venendo eletti, nessuno si accorgeva di niente, naturalmente, no? Perché poi in piccoli comuni non c'era neanche. Esatto, purtroppo la campagna elettorale è andata male, non mi hanno eletto, rientro. Torno in servizio. Se non che i colleghi magari qualcosa si saranno accorti, perché parliamo di 12 agenti della squadra mobile di Reggio Calabria, non sono pochi, anche per i colleghi che sappiamo sono spesso alle prese con turni lunghi, con insomma sovraccarichi di lavoro, mancavano questi 12 colleghi e non era la prima volta. Magari la voce sarà pure circolata, possibile che nessuno abbia notato niente? Anche questo gli chiedo. No, ma allora, un conto è notare, un conto è agire in modo difforme dalle leggi. Cioè, se una legge dice, se una legge stabilisce, per meglio dire, che in caso di candidatura il soggetto deve svolgere la propria attività in campagna elettorale per 30 giorni e il sospetto finisce lì. Diciamo che forse questo episodio così riprovevole, e mi astengo da altri tipi di giudizio, possa magari far capire che per quei comuni l'automatica fruizione di un periodo di 30 giorni di aspettativa non è necessaria. Adesso non dico di tornare come i tempi della nostra unità d'Italia, quando servire il paese era qualcosa considerato così nobile per i legislatori che era vietata qualsiasi forma di retribuzione. Ecco, forse se veramente lo spirito di servire il paese, sia esso un piccolo comune, sia esso come parlamentare, magari evitare la norma che prevede queste agevolazioni di cui si è fatto un uso. Ma forse, non so, adesso io non sono in grado di dare una valutazione, però giorni di aspettativa, magari non 30, un po' di meno, parliamo di comuni piccoli, meno di 1000 abitanti, quindi una campagna elettorale tutto sommato limitata, se uno è davvero in buona fede candidato, forse però una, come dire, una attestazione di una reale intenzione di candidarsi, una verifica, un'autocertificazione a prova di smentita, qualcosa andrebbe forse inserito, sono d'accordo con lei. Però le chiedo anche questo, secondo lei rischiano qualcosa invece adesso dal punto di vista penale, visto che non c'è un reato specifico perché è tutto nel consentito, però siccome era la quarta o quinta volta che lo facevano, al momento dell'elezione non si sono presentati, non hanno alcun interesse di diventare sindaco e consigliere comunale di questo piccolo paese, il prefetto deve commissariare, questo crea anche un danno alla comunità. Esatto, questo sarà compito eventualmente della Corte dei Conti, valutare se ci può essere in questo comportamento un danno erariale censurabile. Ricordiamo comunque una cosa, che questi soggetti hanno sfruttato una norma dove, piaccia o non piaccia, non è consentita nessuna forma di discrezionalità, cioè il soggetto che appartiene al pubblico impiego deve prendersi questo periodo di aspettativa per motivi elettorali. Quindi loro giuridicamente, legalmente parlando, non hanno commesso, almeno per quanto mi risulta, alcun illecito di natura penale. È possibile che verranno valutate, che possano essere valutate delle azioni disciplinari, perché sicuramente il comportamento non rispecchia quello che è un altro principio costituzionale per quanto riguarda chi appartiene e chi svolge la nostra attività, che è quello di servire il paese con onore e disciplina. Da questo punto di vista credo che una riflessione per valutare profili disciplinari, quindi anche esatto. Ci possa essere. Io lo spero, la ringrazio Girolamo Laquaniti dell'Associazione Nazionale Funzione di Polizia, lo spero, credo che ci si possa tutti sperare che ci sia una qualche azione disciplinare, o anche, visto l'evidente intento truffatorio di questa candidatura alle elezioni, questi agenti di polizia di Reggio Calabria, che ci siano anche delle risvolti penali, perché non vorrei che, siccome non sono perseguibili, siccome però non si può tollerare una cosa del genere, poi si finisca per abolire il principio, che è quello dei giorni di aspettativa concessi a chi si vuole candidare alle elezioni, perché quello mi sembra un principio sacrosanto. Se uno si candida e decide di spendere un periodo per quello, può avere diritto a dei giorni, magari non 30, in un piccolo comune, per fare la sua giustissima campagna elettorale. Però chi parte già con l'intenzione di truffare deve essere in qualche modo sanzionato, e vedremo se le sanzioni arriveranno. 13:33, torniamo tra poco. 349-238-6666. Come anticipato, con i risultati di una ricerca della Società Italiana di Medicina Ambientale sulla correlazione tra Covid e smog. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Una profonda riforma del sistema sanitario necessaria, così il ministro della Salute Speranza in audizione sul Recovery Fund. Conte difende il presidente dell'INPS Tridico, ancora oggi il suo stipendio più basso di altri, ma lo invita a impegnarsi di più sulla cassa integrazione. Lecce confessa lo studente fermato per l'omicidio della coppia di fidanzati, erano troppo felici, avrebbe detto agli inquirenti. Dopo i 14 positivi del Genoa in trasferta al San Paolo, trema il campionato di calcio. Oggi test per i giocatori del Napoli. Lo smog favorisce il contagio da coronavirus. Lo studio della Società Italiana di Medicina Ambientale pubblicato sul British Medical Journal. Ne parliamo tra poco. minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Allora, prima di passare al punto di Alberto Rioli, il vice direttore del Sole 24 Ore, anche oggi, una notizia che è ancora una misura anti-coronavirus, una stretta che arriva dalla Campania, perché il presidente della regione De Luca ha annunciato nuove misure per il controllo per quanto riguarda la gestione della Movida. Ci sono tutta una serie di cose che non vi vado a leggere, un'ordinanza valida fino al 7 ottobre per ora. Magari insomma, ci sono tante cose, divieto di vendita con asporto e bevande alcoliche, ma insomma chi è interessato può andare a cercare, perché è la classica ordinanza con tanto di elenco. Comunque il concetto è restrizioni in Campania, nelle zone di Movida, per contrastare il coronavirus. Alberto Rioli. Il punto di Alberto Rioli. Il Premier Conte 2 vuole riscrivere i decreti del Premier Conte 1. Ci sta, nuovo governo, nuova linea. Ciò che colpisce però è la disinvolta damnatio memoria di quanto fatto e firmato in precedenza a Palazzo Chigi. Quota 100 e reddito di cittadinanza sono stati gli stendardi agitati ad uso di media e propaganda senza risparmio dal governo giallo-verde. E ora sono giustamente sotto esame, un esame impietoso. Quota 100 è risultato un imbarazzante e costosissimo unicum previdenziale che non ha creato il turnover che prometteva. Il reddito di cittadinanza è stato il più grande bluff. Ci avevano detto che sarebbe arrivata l'app sui telefonini per farci trovare l'occupazione più vicina e più degna del nostro curriculum. E chi era scettico allora era bollato come disfattista. Oggi Conte quella app la ripropone come fosse nuova, non come fosse il sigillo di un fallimento, di un'idea velleitaria e naif della politica. Intanto, sempre oggi, la Guardia di Finanza ha denunciato altri 11 mafiosi ad Agrigento che percepivano indegnamente il reddito di cittadinanza. Non è la prima volta ed è la cosa che urta di più questa aggravante dello sberleffo della mafia. E allora, adesso, come anticipato, è con noi Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Grazie Miani per essere con noi e aver accettato il nostro invito. La notizia è che lo studio che noi stessi avevamo anticipato, ne avevamo parlato con lei tempo fa, il vostro studio che parla dell'interazione tra l'inquinamento atmosferico e il Covid-19, insomma il particolato nell'aria che in qualche modo sostiene, alimenta, amplifica la diffusione del virus rendendolo persistente nell'atmosfera, è stato pubblicato sul British Medical Journal, è un'importante rivista scientifica. Eravate in attesa di questo passaggio perché dà, come dire, una patente importante a questo studio. Sì, eravamo in attesa, doveva essere il primo studio pubblicato, nei fatti abbiamo fatto a tempo a pubblicarne altri tre, compreso quello del ritrovamento delle tracce di RNA virale nella PM10 di Bergamo, ma purtroppo i tempi alle volte della scienza e dei revisori scientifici sono lunghi. Alla fine ci siamo arrivati. Ecco, la certezza è stata in qualche modo acquisita, cioè questa revisione della comunità scientifica serve proprio avere una pubblicazione, avere visto pubblicato il nostro position paper che all'epoca aveva suscitato grande interesse a livello internazionale, ma anche qualche critica a livello nazionale proprio perché ancora non era pubblicato, ecco, è un punto per noi importante, ma credo che debba essere anche importante per il decisore, per gli amministratori pubblici, per tenere presente quelle che sono le indicazioni che si evincono da questo studio. Questo studio ha delle conseguenze importanti perché voi dite in qualche modo che le zone più inquinate, come per esempio la pianura padana, equivalgono quasi a degli ambienti chiusi, con soffitti molto alti, ma insomma questo è il paragone che fate. Ci ricorda come è partita questa ricerca? Che tipi di indagini avete svolto? Sì, allora questa ricerca era partita da un'evidenza, ovvero sia ci eravamo chiesti il perché di curve pandemiche così veloci, di espansione della pandemia così veloci nelle aree del nord Italia, nel periodo ovviamente pre-lockdown. E abbiamo verificato i dati riportati da tutte le centraline ARPA delle 110 province italiane e abbiamo visto che in quelle aree in cui c'erano stati abbondanti sforamenti di PM10, avevamo preso il PM10 come indicatore, ma vale lo stesso anche per il PM2.5, c'erano state delle corrispondenti anomale curve di accelerazione dell'infezione, prendendo a questa volta i dati, lasciando i 14 giorni di tempo considerati come periodo di incubazione più importante. Sul sito della Protezione Civile abbiamo visto la corrispondenza dei dati di aumento di casi di Covid-19, quindi partendo da questa evidenza abbiamo iniziato una serie di studi che ci hanno portato anche a campionare l'aria, in questo caso con le nostre modeste risorse solamente della provincia di Bergamo allora, e ci hanno poi portato a trovare l'RNA virale, abbiamo fatto altri ecco questo studi, è l'importante altre... no? Ricordare, perché un conto è stabilire una correlazione, elemento da cui siete partiti, tra le zone dove ci sono gli sforamenti del PM10 e le zone dove la curva dell'infezione era più acuta. Un conto però poi è dimostrare che c'è una correlazione diretta e che voi avete trovato proprio le particelle di RNA virale. Dove le avete trovate? Noi le abbiamo trovate sul PM10 della provincia di Bergamo e lo studio l'abbiamo pubblicato a metà aprile. Ma in questo caso ovviamente si tratta di tracce di RNA virale, però di SARS-CoV-2, proprio di questo specifico virus, quindi significa che all'epoca il virus era presente sul particolato. Quello che non abbiamo ancora potuto dimostrare è che fosse vivo e vitale, avesse una certa capacità di virulenza, ma questo non l'abbiamo potuto dimostrare, ripeto, perché... causa scarsità di risorse, visto che noi siamo autofinanziati, non pesiamo sui bilanci pubblici, non avevamo all'epoca, oggi l'abbiamo, non avevamo all'epoca la struttura per poter campionare il particolato e nello stesso giorno fare le analisi PCR che potevano valutare la vitalità e la virulenza del virus. Speriamo che adesso le risorse ci siano per uno studio come questo che ha trovato già una importante, come dire, conferma in questa pubblicazione britannica. Senta Miani, per chiudere però, le conseguenze, diceva lei, no? Cioè quali quali sarebbero le decisioni che in qualche modo dovrebbero essere, voi lo dite chiaramente, conseguenti a questo vostro studio? Per esempio sull'uso della mascherina nelle zone dove lo smog è più alto? Mascherina obbligatoria all'aperto? Mascherina assolutamente obbligatoria all'aperto, laddove ci sono le condizioni atmosferiche ideali di questa che possiamo definire una tempesta perfetta, che però si ripete ogni anno in pianura padana nei mesi di gennaio e febbraio, di nuovo, esatto, sì. E quindi laddove c'è presenza e circolazione di virus, come già oggi c'è, se non si indossa la mascherina, la distanza minima di sicurezza dovrebbe essere tra i 6 e gli 8 metri, quindi molto meglio utilizzare la mascherina in tutti quei luoghi, sia indoor sia outdoor, dove c'è pubblico, ci sono persone camminando sui marciapiedi, piuttosto che quando si incontrano altre persone per strada o in assembramenti, voglio dire anche non iperabbondanti, ecco, basta semplicemente che ci siano persone nel raggio di qualche metro, per cui è importante utilizzare la mascherina. Grazie professor Miani, grazie al dottor Alessandro Miani della SIMA. Insomma, conclusioni che insomma dovrebbero in qualche modo far riflettere, eh? Poi probabilmente arriveranno anche altre conferme a tutto questo. Intanto però, caro Carlo Genta. Ciao Alessio, ciao a tutti. Ti dico che il professor Crisanti ha detto tutti in quarantena, non bisogna giocare nel caso come quello di Genoa-Napoli. Con un caso di positività, giocatori del Genoa devono stare fermi. Sì, vediamo, nel senso che non, a differenza di altri campionati, non ci sono dell'UEFA, non ci sono delle regole stabilite sul numero dei giocatori abili e arruolabili per poter giocare una partita. Chiaramente Torino-Genoa del prossimo weekend è a rischio, perché sappiamo, avrai dato ampiamente notizia, 14 positivi al Genoa, sì, tra giocatori e staff. Ovviamente grande preoccupazione a Napoli, che Napoli, che ha giocato contro il Genoa, stanno facendo il test oggi primi test, venerdì quelli successivi, c'è una partita con la Juventus ovviamente importantissima nel weekend, vediamo se si riuscirà a giocare. Da qui a dire lockdown per il calcio, mi sembra che ci sia ancora una certa distanza, ecco, no? Però vediamo, perché se da 14 diventano di più, vediamo, sì. Quantomeno le partite potrebbero saltare, questo sì. Sì, anche all'estero ci sono stati diversi casi, il Paris Saint-Germain ad esempio ha giocato senza 6-7 titolari tra i più importanti, ha giocato comunque la partita. In Francia servono 20 giocatori abili e arruolabili, appunto, per giocare, in altri paesi meno, per l'UEFA sono 13 quelli testati negativi. Insomma, in Italia non c'è un numero preciso, però ripeto, da qui a dire lockdown per il calcio, credo si debba aspettare. Va bene, si continuerà a parlarne naturalmente dopo il giro delle 14 con tutti i convocati. Grazie Carlo, piccolo break. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto giorno. Eccoci qua con la pagina delle notizie internazionali, oggi tenuta su da Giampaolo Musumeci. Ciao Giampaolo. Ciao Alessio, ciao a ben tutti gli ascoltatori. Giampaolo, grazie. Le anticipazioni di Nessun Luogo è lontano, visto che in questo orario noi vogliamo tenere una finestra aperta sul mondo, che si riaprirà naturalmente alle 16. Parlando di cosa oggi, Giampaolo? Oggi torniamo naturalmente sull'immenso lavoro che sta pubblicando il New York Times riguardo alla fulminante carriera imprenditoriale di Donald Trump, elusore seriale secondo i cronisti del New York Times, il tutto a pochissime ore dal primo dibattito televisivo faccia a faccia, e quindi sarà il vero primo scontro con Joe Biden, diretta televisiva questa notte. Non so quanti degli ascoltatori avranno voglia di alzarsi alle 3 del mattino. Noi ci proviamo, perché alle 3 o all'una? Forse all'una, sì, all'una è ancora possibile. Ancora si può fare. Faremo ovviamente il possibile, perché vederla in diretta evidentemente ha tutto un altro fascino e sapore. Vedremo se Joe Biden, lo sleepy Joe Biden, metterà in campo anche questo enorme arsenale che il New York Times le ha messo a disposizione. È vero, la tempistica è piuttosto sospetta. Era un'inchiesta che durava da parecchio tempo, inchieste che soltanto un grandissimo giornale come il New York Times poteva fare. Anni di lavoro, tre cronisti messi su una storia sola è qualcosa di quasi impensabile, no, per il panorama mediatico odierno. E detto ciò, staremo a vedere se Trump per adesso ha bollato tutto come al solito, fake, no? News. Fake news, con queste, come dire, slogan piuttosto ampi, senza andare nello specifico. Ha detto che ha pagato milioni di dollari. A questo punto, ripeto, vedremo se Joe Biden riuscirà a cogliere la palla al balzo e a infilare un destro che sia, come dire, efficace, perché fino adesso è stato molto alla finestra. O fiacco. Eh sì, decisamente, decisamente. Su questo non ci piove. Beh, insomma, questa è un'occasione, perché o che sia stato tuffato il fisco o che effettivamente le sue aziende siano davvero in perdita, comunque non ne esce una grande figura di, per esempio, di grande imprenditore, perché se hai un gruppo di aziende che sono tutte in perdita, insomma, ci vuole molto a concludere che come imprenditore non sei granché. No, lui si è rappresentato questo, invece, come grande imprenditore certo, di successo. Nel proseguo dell'inchiesta, oggi il New York Times torna molto su quella parentesi piuttosto lunga dello show televisivo di Apprentice, che poi ha avuto un eco anche piuttosto nota in Italia. E quella è stata proprio la vera svolta. Si è, in qualche modo, il New York Times scrive che è stato molto bravo a vendersi. E quindi questo sicuramente è un grandissimo talento. Vedremo appunto se dal punto di vista politico riuscirà a mettere a frutto anche questo aspetto nel confronto con Joe Biden tra pochissime ore. Oh, però immagino che parlerete anche di questo conflitto alle porte dell'Europa, sì, tra l'Armenia e l'Azerbaigian. Esattamente. Non ci aspettavamo, è un ritorno al passato, però insomma sembrava... Sì, il Nagorno-Karabakh ha sempre vissuto questa guerra latente, questa guerra sotterranea, conflitto a bassa intensità, dicono gli analisti esperti di cose militari. Tutto è riesploso domenica mattina alle 6 del mattino, ci sono accuse contrapposte, gli azeri dicono è stata una provocazione armena, dall'Armenia dicono sono stati quelli dell'Azerbaigian a sparare per primi. Fatto sta che ci sarebbero decine, se non centinaia di vittime tra i militari, ma anche tra i civili. Ieri abbiamo dato voce soprattutto alla parte azera, a Baku, ma non per una scelta. In realtà è stato veramente molto difficile trovare armeni che volessero parlare, che parlassero. Finalmente quest'oggi riusciremo a colmare questa lacuna, il che ci dà anche la dimensione di quanto questo conflitto sia combattuto con armi mediatiche e anche con il sapore della propaganda. Anche questo è un aspetto molto molto interessante. È bello sempre che riusciate a far parlare, non dico i protagonisti, insomma, in questo caso di una guerra, ma insomma le persone che vivono lì, testimoni diretti, e che avranno sicuramente qualcosa di interessante, no, per farci capire meglio. Drammaticamente interessante, sì. Grazie Gianpaolo. Grazie mille a voi. È tutto per la puntata di oggi, con Jacopo De Franchi in redazione, Pietro Lacorte in regia. Noi ci risentiamo naturalmente domani con Effetto Giorno, e anche tra poco alle 14 per l'aggiornamento. Alessio Maurizi, ciao, buona giornata. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.